sono contento che questa volta il CNCA ha preso l'iniziativa e ha creato questo cartello a cui hanno aderito ormai più di 30 sigle, compreso la GESI, compreso le ACLI, a parte i sindacati, CGL, CIL, UIL, alcuni centri salesiani di Don Bosco. Questo cartello che ritorna, perché personalmente, vecchio, che cammino nella strada con i ragazzi, dalla nascita della tossico, di questo fenomeno grave della tossicodipendenza, finalmente si deve gridare, siamo indignati che il governo, soprattutto nell'iniziativa di Fini e Mantovano, ci sia questo nuovo disegno di legge che ci fa tornare indietro di 30 anni, non è reato. Questo è, c'è già stato anche il referendum del 93, 54% contro la legge Iervolino Vassalli, quindi è un tornare indietro veramente, andare contro la volontà popolare stessa. Quindi è la mia una indignazione proprio di voler colpire ancora, emarginare, perseguitare i nostri ragazzi e ragazze che hanno già pagato con secoli e secoli di galera questo proibizionismo, con delle morti di overdose, con tutti i nostri feriti dalle varie infezioni e ne ultima ormai da 15-20 anni con l'HIV.